Mi sono preoccupato che non ci fossero iniziative poco chiare, poco trasparenti da parte di qualche settore collegato al Ministero dell'Interno in queste ultime vicende. Ho appurato che ciò non è e quindi sono assolutamente tranquillo e sereno.